eccoli i bambini miei. Il latitante ci reclutava come camerieri. Mia madre, contenta, sorrisi veri. Raccontai meno della verità, di quel lavoro nero. Volevo sposarmi anch'io con Letizia un giorno, come quel matrimonio che servivo. Sceglievano noi guaglioni, perché quelli che davano le agenzie erano finanzieri in borghese. Palese che il mio con la mia donna potesse essere più bello. Quello avevo scelto la porta d'ingresso, il servizio del mondo che contava, e chi nessuno era fesso, e chi nessuno era fesso, e chi nessuno era fesso. Il matrimonio di Viola era un matrimonio per amore, Miccione l'aveva corteggiata da signore, pure un posto da stilista in dote in un'azienda di borse. Forse mamma ora era contenta di questo mio lavoro, che sembrava normalità, sembrava oro per chi viene dalla strada. Mi baciò come le madri con i servi, quando si fa meglio di niente, meglio di nada. Con i nervi di chi sapeva che i miei pensieri erano altri, altro che normalità, altro che normalità, altro che normalità. La tintoria di mia madre, blue sky, col lavoro garantito. Mio padre maestro di ginnastica, da solo non faceva l'affitto. Ci pensava quindi lei a proteggere quell'uomo che ancora amava forte, e che non li vedo quei pensieri come corvi neri uno addosso all'altro, brutti cattivi veri, come se avesse a vendica un torto. Questo ora mamma e i miei pensieri che dentro porta. Com'è che t'ho fatto biondo? Com'è che t'ho fatto bello? Una faccia d'angelo tra pensieri funesti in tondo. Com'è che t'ho fatto biondo? Com'è che t'ho fatto bello? Una faccia d'angelo tra pensieri funesti in tondo. Com'è che t'ho fatto biondo? Com'è che t'ho fatto bello? Una faccia d'angelo tra pensieri funesti in tondo. Tra pensieri funesti in tondo. Tra pensieri funesti in tondo. Gli spari in un ristorante, il lungomare si zittisce dal tuono roboante. Un uomo esce e si nasconde sotto una macchina, un gesto di spia indica. Un uomo con la pistola si accascia e spara. Nicola sfugge a mamma, corre verso la pianina e con una madonna urla sangue, sangue. Si china e vede l'orrore della scena, e Nicolas, morbosamente curioso, osserva la morte con fare giocoso. E Nicolas, morbosamente curioso, osserva la morte con fare gioioso. Osserva la morte con fare gioioso. Le viene in mente quel pomeriggio, suo figlio all'età della foto, che tiene in negozio morbosamente, e allo stomaco una tinaglia stringe lentamente. Chi t'ha già fatto? Non salvai i tuoi occhi alla vista di quel sangue gli echi. Ed è così da quel giorno che non tiene paura di niente, e ora quella faccia non si adombra di fronte a nulla. Sembra che i pensieri cattivi li tenga sotto pelle, e sembra non tenga paura di quella nera folla di corvi neri che lo affolla e continua a cacciare luci. E solo nel negozio si dice che sta bene, dove sta il lavoro da cameriere che fa. Così sta sulla porta del negozio e un brivido sotto pelle le piomba dentro. Ma sì, sente bellissimo un portento in un momento di ozio con gli occhi del mondo addosso. Ma si sente bellissima, un portento in un momento di ozio. bellissima.